ad alta voce. Ilya Shilton legge La morte di Ivan Ильич di Лев Николаевич Толстой. Traduzione di Chiara Natalucci. Nel terzo mese di malattia di Ivan Ilyich accadde che sia la moglie, sia la figlia, sia il figlio, la servitù, i conoscenti, il medico e soprattutto lui stesso, tutti, sapevano di interessarsi a lui solo in virtù del fatto che presto avrebbe finalmente lasciato il suo posto, avrebbe liberato i vivi dall'imbarazzo che la sua presenza provocava e lui stesso si sarebbe liberato dalle proprie sofferenze. Come ciò accadde non era possibile dirlo, perché era accaduto a poco, in maniera impercettibile. Dormiva sempre meno. Gli davano dell'oppio e avevano iniziato anche a fargli delle iniezioni di morfina, ma questo non lo faceva stare meglio. Un'angoscia ottusa che aveva cominciato a provare nel dormiveglia solo all'inizio gli dava sollievo come qualcosa di nuovo, poi diventava come prima o ancora più tormentosa del dolore reale. Gli preparavano delle pietanze particolari su prescrizioni del medico, ma qualsiasi cibo per lui diventava sempre più insipido e disgustoso. Si erano attrezzati anche per le evacuazioni e ogni volta era una tortura per via della sporcizia, dell'indecenza e dell'odore, per via della consapevolezza che a quell'operazione doveva prendere parte anche un'altra persona. Ma in quella spiacevole circostanza apparve una consolazione per Ivan Ilyich. A spostarlo veniva sempre il servo Gerasim. Gerasim era un giovane contadino, pulito, fresco, cresciuto in città a zuppa di carne di montone. Era sempre allegro e sereno. All'inizio la vista di quest'uomo sempre lindo e vestito alla russa che faceva quel lavoro ripugnante metteva in imbarazzo Ivan Ilyich. Una volta, dopo essersi sollevato dalla padella e senza avere la forza per tirarsi su i pantaloni, si lasciò cadere sulla poltrona morbida e con terrore si guardò le cosce con i muscoli in evidenza, privi di forze. Entrò Gerasim con i suoi grossi stivali che emanavano un gradevole odore di pece e di aria fresca invernale, con un'andatura leggera e sostenuta, un grembiule pulito di canapa e una linda camicia di calicò, con le maniche rimboccate sulle braccia nude, forti e giovani. Senza guardare Ivan Ilyich, si avvicinò alla padella, trattenendo, per non offendere il malato, la gioia di vivere che gli splendeva in volto. «Gerasim», disse debolmente Ivan Ilyich. Gerasim trasalì, evidentemente spaventato all'idea di aver fatto qualcosa di sbagliato, e con un rapido movimento si girò verso il malato col suo bel volto giovane, bonario e semplice, sul quale era appena iniziata a spuntare la barba. «Cosa desiderate? Immagino che per te non sia molto piacevole. Ti chiedo scusa, ma non ce la faccio. Ma figuratevi!» E a Gerasim brillarono gli occhi e i giovani denti bianchi. «Perché non dovrei farlo? Il vostro compito è di fare il malato». E con le sue mani agili e forti fece quello che doveva fare e con passi leggeri uscì. 5 minuti dopo, sempre a passi leggeri, ritornò. Ivan Ilyich stava ancora seduto in poltrona. «Gerasim», disse quando questi ebbe sistemato, pulito e lavato la padella, «per favore aiutami, vieni qua». Gerasim si avvicinò. «Sollevami, faccio fatica da solo e ho già mandato via Dimitri». Gerasim si avvicinò e con braccia tanto forti forti quanto leggeri erano i suoi passi, lo sollevò delicatamente e con dolcezza lo tenne, mentre con l'altra mano gli tirò su i pantaloni e lo fece sedere. Ma Ivan Ilyich chiese di essere trasferito sul divano. Gerasim, senza sforzo e quasi senza fare pressione, lo accompagnò verso il divano, quasi sollevandolo, e lo mise a sedere. «Grazie, come sei delicato. Fai tutto bene, tu». Gerasim sorrise di nuovo e fece per uscire, ma Ivan Ilyich stava così bene con lui che non voleva che se ne andasse. «Ecco, spostami quella sedia, per favore. No, qui, sotto le gambe. Sto meglio con le gambe alzate». Gerasim portò la sedia, la poggiò piano a terra senza farla sbattere e posò le gambe di Ivan Ilyich sulla sedia. A Ivan Ilyich sembrava di stare meglio quando Gerasim gli teneva le gambe sollevate. «Sto meglio con le gambe in alto», disse Ivan Ilyich. «Prendimi quel cuscino là». Gerasim eseguì. Di nuovo gli sollevò le gambe e le riappoggiò. Di nuovo Ivan Ilyich ebbe l'impressione di stare meglio quando Gerasim gli teneva le gambe. Quando le riappoggiava, gli sembrava di stare peggio. «Gerasim», disse, «hai da fare ora?» «No, signore, niente», disse Gerasim, che aveva imparato dalla gente di città a parlare con i signori. «Hai altro da fare?» «Che altro ho da fare? Ho fatto tutto, devo solo spaccare la legna per domani». «Allora potresti tenermi le gambe sollevate?» «Ma certo che posso». Gerasim sollevò le gambe più in alto e, secondo Ivan Ilyich, in quella posizione non sentiva affatto dolore. «E come farai con la legna?» «Non preoccupatevi, troverò il tempo». Ivan Ilyich disse a Gerasim di sedersi, di tenergli le gambe e parlare con lui. E, cosa strana, gli sembrava di stare meglio quando Gerasim gli reggeva le gambe. Da quel giorno Ivan Ilyich iniziò a chiamarlo spesso e lo pregava di reggergli le gambe sulle spalle, e gli piaceva parlare con lui. Gerasim lo faceva volentieri, senza fatica, con una bontà che commuoveva Ivan Ilyich. La forza e la gioia di vivere di Gerasim non solo non addolorava Ivan Ilyich, ma addirittura lo tranquillizzavano. Il tormento principale di Ivan Ilyich era la menzogna, quella menzogna accettata chissà perché da tutti, che lui fosse solo malato e che non stesse morendo, e che doveva solamente star calmo e curarsi, che tutto poi si sarebbe sistemato. Lui invece sapeva che qualunque cosa facesse non avrebbe portato a niente, se non a una sofferenza ancora più tormentosa e alla morte. Questa menzogna lo tormentava che gli altri non volessero ammettere quello che tutti sapevano e che anche lui stesso sapeva, e che continuassero a mentire sulla sua terribile condizione e volessero addirittura costringerlo a prendere parte a quella menzogna. La menzogna, quella menzogna che si compiva davanti a lui alla vigilia della sua morte, la menzogna che riduceva il terribile atto artistico della sua morte a livello delle loro visite, delle tende, dello storione a pranzo. Per Ivan Ilyich era uno strazio terribile. E stranamente, quando si esibivano in sua presenza nelle loro scenette, era stato molte volte sul punto di gridargli: «Smettetela di mentire, lo sapete voi e lo so anch'io che sto morendo, quindi almeno smettetela di mentire». Ma non trovò mai il coraggio di farlo. Vedeva che l'atto spaventoso e terribile della sua morte era diventato nient'altro che una seccatura per tutti quelli che gli stavano intorno, un'indecenza, un po' come quando una persona esce dal salotto emanando un cattivo odore, secondo quel decoro che gli aveva servito tutta la vita. Vedeva che nessuno provava veramente pietà per lui, perché nessuno voleva capire la sua condizione. L'unico a comprenderla e ad averne pietà era Gerasim, e per questo Ivan Ilyich stava bene solo con lui. Stava bene quando Gerasim, a volte, per notti intere, gli teneva le gambe e si rifiutava di andare a dormire, dicendo: «Non vi preoccupate, Ivan Ilyich, dormirò dopo». O quando egli di colpo, passando al tuo, aggiungeva: «Magari non fossi malato, ma dato che lo sei, perché non dovrei servirti?». Solo Gerasim non mentiva, ed era chiaro che solo lui capiva come stavano le cose. Non riteneva necessario nasconderlo e provava genuinamente pietà per il suo padrone, debole e scarnito. Addirittura una volta, mentre Ivan Ilyich lo stava mandando via, Gerasim gli disse: «Tutti dobbiamo morire, perché non dovrei darmi da fare», facendogli capire che non era affatto stufo di servirlo, anche perché lo stava facendo per un moribondo e sperava che, quando sarebbe stato il momento, qualcuno l'avrebbe fatto per lui. A parte la menzogna, o proprio a causa di essa, la cosa che più tormentava Ivan Ilyich era che nessuno provasse pietà per lui tanto quanto egli avrebbe voluto. Ivan Ilyich, in certi momenti, dopo lunghe sofferenze, avrebbe desiderato più di tutto, come faceva non provare vergogna nel riconoscerlo, che qualcuno lo compatisse come un bambino ammalato. Voleva che lo accarezzassero, che lo baciassero, che piangessero davanti a lui come si fa con i bambini. Sapeva di essere un giudice importante con la barba incanutita e che per questo non era possibile, ma lui lo voleva lo stesso. Gerasim era l'unico che si avvicinava a questa compassione, e per questo il rapporto che aveva con lui gli dava conforto. Ivan Ilyich voleva piangere, voleva che lo accarezzassero e che piangessero davanti a lui. Poi un giorno arrivava un suo collega, il giudice Shebek, e invece di piangere e farsi accarezzare, Ivan Ilyich assumeva un'aria seria, severa e pensierosa, e per inerzia iniziava a dire la sua sulla sentenza della Cassazione, ribadendola con ostinazione. Quella menzogna intorno a lui e dentro di lui era quello che più di tutto avvelenava gli ultimi giorni della vita di Ivan Ilyich. Era mattina perché Gerasim se n'era andato ed era arrivato Piotr, il lacchè, il quale aveva spento le candele, aveva aperto una tenda e si era messo a sistemare in silenzio. Poteva essere mattina, poteva essere sera, venerdì o domenica, non faceva nessuna differenza, era tutto uguale, un dolore sordo e tormentoso che non si fermava un attimo. La consapevolezza di una vita che se ne stava andando, ma che non se n'era ancora andata del tutto. Quella morte spaventosa e odiata che si avvicinava, che era la sola realtà, e tutto intorno la stessa menzogna. Che giorno era? Che settimana? Che ora? Desiderate il tè? Gli serve ordine. Vuole che al mattino il padrone beva il tè, pensò Ivan Ilyich, e disse soltanto: no. Desiderate spostarvi sul divano? Deve mettere a posto la stanza e io gli sono d'intralcio. Io sono sporcizia, disordine, pensò, e disse soltanto: no, lasciami stare. Il lacchè seguitò con le faccende. Ivan Ilyich allungò un braccio. Piotr gli si avvicinò servizievole. «Cosa desiderate?» «L'orologio». Piotr prese l'orologio che era a portata di mano e glielo diede. «Sono le 8:30. Di là si sono alzati?» «Mi pare di no. Vasily Ivanovich, il figlio, è andato a scuola e Praskovia Fyodorovna mi ha dato ordine di svegliarla solo se lo chiedete. Lo desiderate? No, non ce n'è bisogno. Potrei provare a prendere il tè, pensò. Sì, portami il tè. Piotr andò verso la porta. Ivan Ilyich aveva paura di rimanere solo. Come faccio a trattenerlo? Sì, la medicina. Piotr, dammi la medicina. Perché no, magari la medicina farà ancora effetto. Prese il cucchiaino e bevve. No, non farà effetto. È tutta una sciocchezza, tutto un inganno, decise, non appena sentì quel sapore dolciastro, a lui noto, che non lasciava speranza. No, non ci posso più credere. Ma il dolore, perché questo dolore? Non potrebbe fermarsi almeno un attimo? Ed emise un gemito. Piotr si avvicinò. No, vai, portami il tè. Piotr uscì. Ivan Ilyich, rimasto solo, gemeva non tanto per il dolore, seppur terribile, quanto per l'angoscia. Tutto sempre uguale, questi interminabili giorni e queste interminabili notti. Non potrebbe essere più veloce, ma cosa potrebbe essere più veloce? La morte, la tenebra, no, no, qualsiasi cosa è meglio della morte. Quando Piotr entrò con il tè sul vassoio, Ivan Ilyich lo guardò a lungo con aria smarrita, non capendo chi fosse o cosa volesse. Piotr si spaventò per quello sguardo, ma non appena Piotr si spaventò, Ivan Ilyich tornò in sé. «Sì», disse, «il tè». «Bene, appoggialo, aiutami solo a lavarmi e a mettermi una camicia pulita». E Ivan Ilyich iniziò a lavarsi. Facendo delle pause, si lavò le braccia, il viso, i denti, si pettinò e si guardò allo specchio. Si spaventò. Gli fecero paura soprattutto i capelli schiacciati sulla fronte pallida. Mentre gli veniva cambiata la camicia, sapeva che si sarebbe spaventato ancora di più a guardare il suo corpo, quindi non si guardò. Ma ecco, tutto era finito. Si infilò la vestaglia, si coprì con il plaid e si mise in poltrona a bere il tè. Per un attimo si era sentito ristorato, ma appena iniziò a bere, di nuovo quel sapore, quel dolore. Si sforzò di berlo tutto e si coricò allungando le gambe, si distese e congedò Piotr. Sempre la stessa cosa. Ora balenava un barlume di speranza, ora si ingrossava il mare della disperazione, e sempre quel dolore, sempre quel dolore, sempre quell'angoscia, e sempre la stessa cosa. Una persona in preda a una terribile angoscia vorrebbe chiamare qualcuno, ma sa già che davanti agli altri sarebbe peggio. Magari un po' di morfina mi aiuterebbe ad assopirmi. Dirò al dottore di pensare a qualcos'altro. Non è possibile, così non è possibile. Passa un'ora, ne passano due, ma ecco che suona il campanello in anticamera. Forse è il dottore. Già, è proprio il dottore, fresco, energico, in carne, allegro, con quell'espressione come a dire: vi siete così spaventato, ma adesso sistemeremo tutto. Il dottore sapeva che quell'espressione lì non era opportuna, ma ce l'aveva già stampata in faccia e non poteva levarsela, come una persona che la mattina indossa il frac e se ne va a fare i suoi giri. Il dottore si fregò le mani con fare energico e confortante. Che freddo! Il gelo fa bene, fatemi scaldare, disse con quell'aria, come se bastasse aspettare un attimo che lui si riscaldasse, che poi avrebbe messo tutto a posto. E allora come... E Ivan Ilic si accorse che il dottore avrebbe voluto dire come vanno le cose, ma lui stesso sapeva bene che sarebbe risultato sconveniente, quindi disse: «Come avete passato la notte?» Ivan Ilic guardò il dottore con l'aria di chiedere: «Come fai a non vergognarti mai di mentire in continuazione?» Ma il dottore non volle capire quella domanda. Ivan Ilic gli disse: «Terribile, come sempre. Il dolore non se ne va, non si arrende. Magari se mi desse qualcosa. Ecco, sempre così, i malati. Beh, mi sembra di essermi scaldato. Persino la precisissima Praskovia Fyodorovna non avrebbe niente da ridire sulla mia temperatura. Allora, buongiorno!» Il dottore gli strinse la mano. E, messa da parte la giocosità di prima, iniziò a visitare il malato con aria seria, il polso, la temperatura, i picchiettii, l'auscultazione. Ivan Ilic non aveva dubbi. Sapeva benissimo che tutto ciò era una sciocchezza e un inutile inganno. Ma quando il dottore, in ginocchio, si era allungato su di lui, appoggiando l'orecchio ora in alto, ora in basso, e aveva compiuto su di lui, con volto significativo, una serie di evoluzioni ginniche, Ivan Ilic si arrese, come gli capitava di arrendersi ai discorsi degli avvocati, quando sapeva fin troppo bene che tutti stavano mentendo e il motivo per cui stavano mentendo. Il dottore, con le ginocchia sul divano, stava ancora picchiettando quando alla porta si sentì il fruscio dell'abito di seta di Praskovia Fyodorovna e si udì il suo rimprovero a Piotr, che non l'aveva avvisata dell'arrivo del dottore. Entrò, diede un bacio al marito e iniziò subito a far finta di essere sveglia da molto e che solo per un malinteso non si era fatta trovare l'arrivo del dottore. Ivan Ilic la guardò, la osservò da capo a piedi con uno sguardo di rimprovero per la sua pelle bianca, per la sua figura paffuta, le mani e il collo puri, i suoi capelli lucenti, i suoi occhi vivaci pieni di vita. La odiò con tutta l'anima e il contatto con lei lo fece soffrire perché aveva aumentato l'odio nei suoi confronti. L'atteggiamento di Praskovia Fyodorovna nei suoi confronti e nei confronti della sua malattia era sempre lo stesso. Così come il dottore aveva elaborato con i malati un atteggiamento che non poteva togliersi di dosso, anche lei aveva elaborato un atteggiamento con lui che non poteva togliersi di dosso. Lui non faceva quello che doveva fare, quindi era colpa sua e lei lo rimproverava amorevolmente. Ma sì, non obbedisce, non prende le medicine all'ora giusta e soprattutto sta sempre sdraiato in quella posizione che probabilmente non gli fa bene, con le gambe in alto. Praskovia Fyodorovna raccontò di come lui costringesse Gerasim a reggergli le gambe. Il dottore sorrise con aria sprezzante e affettuosa. «Che volete farci? I malati a volte escogitano delle sciocchezze, ma possiamo perdonarli». Quando la visita terminò, il dottore guardò l'orologio e Praskovia Fyodorovna annunciò a Ivan Ilic che lui poteva dire quello che voleva, ma lei avrebbe chiamato a casa il rinomato medico e insieme a Mikhail Danilovich, come si chiamava il dottore abituale, lo avrebbero visitato e avrebbero fatto le loro considerazioni. «Non opporti, per favore. Lo faccio per me», disse lei in maniera ironica, dando a intendere che faceva tutto per lui e che solo per questo lui non aveva il diritto di rifiutare. Ivan Ilic tacque e fece una smorfia. Sentiva che la menzogna che lo circondava pervadeva tutto a tal punto che era difficile distinguere ogni cosa. Davanti a lui lei faceva tutto solo per se stessa e gli diceva di farlo per se stessa, cosa che lei effettivamente faceva, con un tono inverosimile che lui doveva interpretare proprio il contrario di quello che lei gli diceva. Così, alle 11:30, giunse il rinomato medico e ricominciarono le auscultazioni e ripresero i discorsi significativi sull'intestino cieco, sia in sua presenza che nell'altra stanza, e le domande e le risposte dal tono significativo, cosicché, invece della reale domanda sulla vita e la morte, l'unica cosa che stava veramente a cuore a Ivan Ilic, si ripresentò di nuovo il problema del rene e dell'intestino cieco che non si stavano comportando come avrebbero dovuto, questioni in cui si erano appunto imbattuti Mikhail Danilovich e il rinomato medico e che li costringevano a ravvedersi. Il rinomato medico si congedò con aria seria ma speranzosa e alla timida domanda che Ivan Ilich gli pose, guardandolo con gli occhi brillanti di paura e di speranza se ci fosse la possibilità di guarire, il medico rispose che non si poteva dirlo con certezza, ma la possibilità c'era. Lo sguardo di speranza con cui Ivan Ilich accompagnò il dottore era così penoso che a vederlo Praskovia Fyodorovna scoppiò addirittura a piangere mentre usciva dallo studio per dare il compenso al rinomato medico. Il sollievo provocato dalla rassicurazione del dottore non durò a lungo. Di nuovo la stessa stanza, gli stessi quadri, le stesse tende, la tappezzeria, le boccette e lo stesso corpo dolorante e straziato. E Ivan Ilich iniziò a lamentarsi. Gli fecero un'iniezione e si assopì. Quando si risvegliò era già buio. Gli portarono la cena, mangiò a fatica del brodo, di nuovo un'altra notte sopraggiungeva. Dopo cena, alle 7, entrò nella stanza Praskovia Fyodorovna, vestita a festa, con i seni prosperosi sollevati e tracce di cipria sul viso. Già la mattina gli aveva ricordato che sarebbero andati a teatro. In città era arrivata Sarah Bernard. Loro avevano un palco che lui stesso aveva insistito a prendere. Se n'era dimenticato e l'abito della moglie lo offese. Ma non lo diede a vedere quando si ricordò che lui stesso aveva insistito affinché prendessero il palco e andassero a teatro, perché quello era per i ragazzi un piacere estetico educativo. Praskovia Fyodorovna entrò fiera di sé, ma con un'aria in qualche modo colpevole. Si sedette, gli chiese come stava, secondo lui così tanto per chiedere, non per sapere, dato che non c'era niente da sapere, e cominciò a dire che lei non sarebbe neanche andata, ma che il palco era stato prenotato, che ci sarebbero andati Hélène e la figlia e Petrissev, il giudice istruttore fidanzato della figlia, e che non si poteva lasciarli andare da soli, che a lei sarebbe piaciuto molto di più stare lì seduta con lui. Si raccomandò che in sua assenza seguisse la prescrizione del dottore. Sì, Fyodor Petrovich, il fidanzato, vorrebbe entrare. Lo faccio entrare? E anche Lisa, falli entrare. Entrò la figlia, vestita in modo molto elegante, con il giovane corpo seminudo, e Ivan Ilich pensò al suo di corpo che lo faceva tanto soffrire, e lei invece lo metteva in mostra, forte, in salute, evidentemente innamorata e indignata di fronte alla malattia, alla sofferenza e alla morte che turbavano la sua felicità. Entrò anche Fyodor Petrovich, col frac, i capelli acconciati alla capul, il collo magro e lungo, stretto nel colletto bianco, con un enorme sparato bianco e le cosce forti strette nei pantaloni neri, con un guanto bianco infilato e il cilindro. Dietro di lui, senza farsi notare, si intrufolò il figlio ginnasiale nella sua nuova uniforme, con i guanti e con delle terribili occhiaie, poverino, di cui Ivan Ilyich conosceva il significato. Il figlio aveva sempre provato pena per lui e il suo sguardo spaventato e commosso era terribile. A parte Gerasim, Ivan Ilyich sapeva che Vassia era il solo a capire e ad avere pietà per lui. Tutti sedettero e di nuovo gli chiesero come stava. Cadde il silenzio. Lisa chiese alla madre del binocolo. Iniziarono dei battibecchi fra madre e figlia su chi l'avesse preso. La scena fu sgradevole. Fyodor Petrovich chiese a Ivan Ilyich se avesse già visto Sarah Bernard. Ivan Ilyich all'inizio non capì la domanda, poi disse: «No, non l'ho mai vista. E voi?» «Sì, nell'Adrien Le Couvreur». Praskovia Fyodorovna disse che era particolarmente brava in quel ruolo. La figlia obiettò. Ne scaturì una discussione sull'eleganza e sul realismo della sua recitazione, i soliti discorsi che si ripetono sempre uguali a se stessi. A metà discorso, Fyodor Petrovich guardò Ivan Ilyich e si zittì. Anche gli altri lo guardarono e si zittirono. Ivan Ilyich guardava con occhi lucidi davanti a sé, evidentemente indignato con loro. Bisognava porre rimedio a quella situazione, ma non si poteva. Bisognava in qualche modo rompere quel silenzio. Nessuno si decideva e tutti avevano paura che di colpo quella solita menzogna venisse rivelata e diventasse chiaro a tutti come stavano realmente le cose. Lisa si decise per prima, ruppe il silenzio, voleva nascondere ciò che tutti provavano, ma si lasciò sfuggire qualcosa. «Però, se si deve andare, è ora», disse guardando il suo orologio, regalo del padre, e sorridendo al giovane in maniera appena percettibile, alludendo a qualcosa di noto solo a loro due, si alzò facendo frusciare il vestito. Tutti si alzarono, salutarono e se ne andarono. Quando furono usciti, a Ivan Ilyich sembrò di stare meglio. La menzogna non c'era più, se n'era andata con loro, ma il dolore rimaneva, sempre quello stesso dolore, sempre quella stessa paura, niente più pesante, niente più lieve, sempre peggio. Continuarono a passare i minuti e le ore, sempre le stesse cose, senza fine e sempre più spaventosa l'ineluttabile fine. «Sì, mandatemi Gerasim», rispose alla domanda di Piotr. Thank you. La voce di Elia Shilton per la puntata numero 6 della morte di Ivan Ilitch di Lev Tolstoi. La lettura continuerà e si concluderà domani per questa traduzione realizzata appositamente per Radio 3 da Chiara Natalucci. E io vi ricordo che le puntate precedenti possono essere riascoltate alla pagina daltavoce.rai.it, che è un programma, lo ricordo, di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, con la regia di Jonathan Zenti.